scorreva nelle vene la musica e le note. La notte poi sognavo le melodie più belle e le cantavo insieme a tutte le mie stelle. I tasti che suonavo di un pianoforte antico erano bianchi e neri, ma io non ci arrivavo. Ma guarda che gioiello mi è stato regalato, e quando io lo stringo sento che io sono libera, per sempre libera. Musica con la mia musica, canterò con tutto. Resterò e sarò libera per sempre libera.